Allora, porco, abbiate per questa cosa qua. Ah, ma devo cambiare programma. Signori, buonasera e buon anno. Va bene, allora. L'ultima lezione avevamo visto un po' di cosine per quanto riguardavano le tabelle 0 underscore. Dico bene? Avevamo visto la clausola distinct nei select. E abbiamo visto quindi la clausola distinct nel select, abbiamo visto le zero underscore, quindi come passare da una serie di generi ad una zero underscore. Ora Rani mi diceva che non era chiarissimo, comunque non a tutti è venuto il discorso del prendo i generi e ne faccio un underscore. Allora, io prendo l'esempio della lezione scorsa. Nell'ora della tabella di raccordo. Sì. Sono sempre le tabelle primarie. Sì, ma in realtà c'è un unico campo, per cui. Sì, un unico campo. La chiave primaria sarà quella. Sull'underscore. Allora, nell'esempio della lezione scorsa c'erano i vari film con i vari generi, ok? Allora, io che cosa avevo fatto? Avevo fatto una prima query dove avevo preso l'elenco dei film. Vado a cancellare magari questa e vado a cancellare queste due. Ok, avevo preso la colonna generi, avevo eseguita e c'erano 214 righe, ma in realtà erano ripetute, giusto? Poi avevamo visto che andando nella visualizzazione SQL andavo a dirgli select distinct e con questa clausola da 214 si passava a 22. Sì, finisci. Fino a qua tutti? Bene. A questo punto, una volta che tutto funziona, devo dire creami. Dove sei? Qua. Creami una tabella. Sì. Quindi fare diventare questa query di selezione una query di creazione tabella. E la chiamo 0 underscore generi. Sì. Tutto chiaro fino qua? Sì. Perfetto. Gli dico ok e lui mi crea la 0 underscore generi. Questa query in realtà a questo punto la posso anche chiudere e non salvare, tanto il suo lavoro l'ha fatto. Cioè, mi ha preso i generi che c'erano prima e li ha messi lì. Ora, la lezione scorsa avevamo fatto anche la maschera, sì. Sì, sì, sì. Ah sì, ho dovuto collegare la combinata. Esatto, la lezione scorsa abbiamo visto poi che una volta che si fa la maschera, come creare un menu a tendina. D'accordo? È collegata a quel menu a tendina, nel senso che, lo rifaccio vedere un secondo. Allora, io creo il menu a tendina con questa. Allora, sono entrato nella struttura. Se vado veloce ditemelo, signori. Ma non è il menu a tendina, è collegare la tabella underscore con la tabella arco. Se vado veloce ditemelo, ditemelo. Allora, faccio il menu a tendina, tac. Mi chiede nel primo passaggio, l'avete fatto tutti a casa? Posso andare abbastanza spedito? Funziona? Non ho avuto come. In che fase? Cioè sia all'inizio, ho provato a seguire tutte le procedure che mi hai detto, però. Allora signori, qua ci dobbiamo capire. Io di volta in volta non ho nessuna difficoltà a ripetere le cose, il problema è che devo capire dove vi siete arenati, perché se non capisco dove vi siete arenati io non posso darvi una mano. Scusami Vali, ti sei arenato ma dove? E poi mi sono arenato sia all'inizio quando ho creato tutta la tabella di rapporto e poi anche dopo, non mi ricordavo tutti questi passaggi. Perché c'erano diversi passaggi, non sono riuscito a ricordare tutti i passaggi. Ok, allora, adesso la tabella di raccordo è chiaro come l'ho fatta? Sì, fino alla raccordo sono arrivato anch'io. Aspetta, Vanni. La tabella di raccordo è chiaro come l'ho fatta? Ok, ho preso una tabella generale con più generi ripetuti più volte. Chiaro che poi avendo magari una base dati univoca, uguale per tutti, si riesce a lavorare anche in maniera un pochino più standardizzata, diciamo così. Adesso cercherò magari per le prossime volte di prendere una tabella univoca e lavoriamo poi tutti sulla stessa tabella. A casa si dà più o meno per scontato che durante le vacanze si facesse una tabella, in realtà neanche troppo grossa, no? Anche di 2 o 3 colonne, con in una di queste colonne la ripetizione di 3-4 valori, ok? E da lì si faceva la tabella di raccordo. Fino qua ci siamo alla tabella di raccordo, ok. Dopodiché si crea una maschera per la tabella principale, che in questo caso è l'elenco dei film. E poi, al posto del campo generi, in questo frangente, lo si cancella e si crea un menu a tendina. Perché la maschera mi crea già il campo generi, ma me lo crea come facciamolo. Allora, se io prendo creo una maschera. Prendo ad esempio il numero di inventario, titolo, genere, sottogenere, regista, e non mettiamone tanto, mettiamo soltanto questi. Vado avanti, fino a qua mi seguite tutti, no? Vado avanti e mi creo elenco film struttura 1. Ok? Tac. Lui che fa? Azione me la prende, vabbè, in questo caso specifico perché chi aveva fatto il database l'aveva già messo come, però in teoria vi viene una semplice casellina di testo come questa, ok? Benissimo. Allora a questo punto io che cosa devo fare? Entro in struttura, mi cancello genere ed al suo posto mi vado a mettere la casella combinata. Aspetta. No, è sempre Vanni che deve aspettare. Quindi mi creo la maschera per la tabella principale. Il campo dove deve andare a pescare nella tabella di raccordo lo cancello, perché lui mi creerà una casella di testo semplice, e al suo posto ci metto la casella combinata. Ecco signori, in questa lezione non vi preoccupate, cioè chiedetemele le cose, però mi dovete dire dove vi arenate, perché se capite questo andate poi avanti come delle spie. Se qua avete dei problemi vi arenate tutte le sante volte, quindi non vi fate problemi, me lo ripetete, però cioè, ditemi, mi sono arenato qua, ho fatto questo, mi sono trovato qua, perché se no non ci capiamo. Quindi a questo punto la creazione della tabella, la casella combinata, segue 4-5 passaggi. Non so se l'hai provato a casa. Ok, allora il primo passaggio mi chiede sostanzialmente da dove deve andare a pescare i dati. Quindi questa procedura guidata consente di creare una casella combinata con l'elenco dei valori che è possibile selezionare. Indicare la modalità che dovrà essere utilizzata da parte della casella per caricare i valori. Cioè cosa vuol dire? Da dove ripesco questi valori? Ricerca i valori in una tabella, è proprio quello che serve a noi, perché noi abbiamo fatto prima la tabella di raccordo, per cui li ricerco in una tabella. Secondo passaggio, in quale tabella o query si troveranno questi valori? Vabbè, qua non è che abbiamo molte difficoltà, quella di raccordo. Indicare i campi contenenti i valori da includere. Io prima non ho fatto una cosa però. Nella tabella generi bisogna specificare che genere è una chiave primaria. Questo perché, per il semplice motivo che se io non faccio questo lavoro qua, rischio che lo stesso genere... Ma registra o non registra? Non registra. Rischio che lo stesso genere lo vado a impostare due volte, per errore, per quello che è, d'accordo? Quindi nella tabella di raccordo devo andare a specificare chiave primaria, sì. E va bene. Quindi questo se non l'avevate scritto. D'altro canto questa specifica va in accordo a tutto quello che ci eravamo detti in tutte le lezioni precedenti, cioè ogni tabella deve avere sempre una chiave primaria. Quindi dicevo, ritorniamo alla nostra mascherina, salute. Quindi questa è la combinata. Da dove pesco i dati? Da una tabella. Da quale tabella? _. Indicare i campi contenenti i valori da includere nella casella combinata, cioè quali campi devo infilare lì dentro. Giustamente, lo devo selezionare. Ok. Eventualmente mi dice scegli un ordine alfabetico crescente o decrescente. E vado avanti. Mi fa vedere quello che mi andrà a pescare. Il penultimo dei passaggi è quello più delicato. Il penultimo dei passaggi mi dice, ok, il valore selezionato nella casella combinata può essere memorizzato nel database o utilizzato in un secondo tempo. Non ho mai capito a che cosa può essere utile in un secondo tempo, ma va bene così. indicare l'operazione che si desidera eseguire. Allora, questo qua è il penultimo passaggio e ripeto, è quello più delicato, cioè gli dovete dire che volete memorizzare il valore dove? Nel campo genere. Cioè, una volta che l'utente mi sceglie dal menu tendina il genere, lo voglio memorizzare nella tabella nel campo genere. E vado avanti e infine gli do il nome. D'accordo? Fine del discorso. Dopodiché me lo vado a posizionare un pochino meglio, patapin patapan, ta ta ta e via. Ok? È più chiaro adesso? Da provarci a casa. Però ripeto, se ci provate a casa e non ci riuscite, segnatevi i passaggi, cioè ditemi mi sono fermato qua, perché da lì poi lo riprendiamo. Se io volessi non tornare nella struttura della casella combinata, cioè nel, che prima la casella doveva selezionare i vari campi, eccetera, per farmi apparire sul menu tendina. Quindi il soggetto è il menu tendina? Menu tendina. Ok. Allora, in quel caso lì chiaramente bisogna entrare nella struttura della maschera, che una volta che sono nella struttura della maschera, clic destro sul menu a tendina, proprietà. E qua mi appare tutte le informazioni. Sì, ah, mi pare che non è che ritorna nella forma di prima, come faceva. Quando crei la casella combinata ti fa una specie di creazione, ti fa una creazione. Ah, no, no, no, la devi cancellare e sì. Rifare. Ok, a questo punto la mia maschera avrà l'indicazione del genere che viene pescato dall'altra parte. D'accordo? Quindi provateci nuovamente a casa. Certo. Certo. Non lo fa se tu lo fai contestualmente a questo, cioè devi chiudere la maschera, vai nella tabella generi, che magari nel frattempo ti sei creato una mascherina, Ari Ciao, ho creato il genere Ari Ciao, vado qua. Ari Ciao. Quindi se clicchi ti cambia il genere in Ari Ciao. Sì, cambia quello ma non vuol dire Ciao e Repo. O giammai. Eh? O giammai. Sei rimasto lì? Se io ho il numero di inventario 215, se vado nell'elenco della struttura, elenco firm 215, genere Ari Ciao. Sì, ho fatto giammare quel campo lì. Se io ho una tabellina che voglio pescare soltanto una tabella così combinata, voglio che però mi aggiorni il record di quella maschera che sto vedendo. Come adesso, se io cambio da azione ad Ari Ciao, deve darmi il record vuoto, quindi prendevo. No, cioè. È nuovo, è un record nuovo. Allora, quindi io creo un record nuovo. Ok. L'azione è creo un record nuovo. No, sì, bisogna contestualizzare, cioè se non. Nella tabella di data precedente, è cambiato solo il tipo di azione e l'ha chiamato Ariciao. Sì. Io volevo che invece vedere se scelgo avventura che mi aggiorni il primo dell'avventura che c'è. Visualizzato come il numero di inventario, come. Quindi mi stai chiedendo se io gli dico prendimi avventura, lui mi deve cercare il primo della serie di avventura. Allora non è una modifica, no. È una ricerca. Ne convieni? Sì, però no, quello che volevo arrivare. Lo so, però se non usiamo i termini non ci capiamo. Ok, quindi mi stai parlando di una ricerca, giusto? Perché mi faccio la. Certo. che mi visualizzi sulla maschera il primo record che sto ricercando. Quindi non è un aggiornamento. Allora, signori, scusatemi, è proprio italiano. Aggiornare in italiano vuol dire effettuare una modifica con qualcos'altro. Siamo d'accordo, no? Se io aggiorno qualcosa, vuol dire che c'è un qualcosa di vecchio e lo cambio con qualcosa di nuovo. Siamo d'accordo? Quindi per me il termine aggiornare, se usate il termine aggiornare, per me vuol dire modificare. È per quello che non ci capiamo. Se tu invece mi dici voglio ricercare il primo elemento che ha avventura, si fa in un altro modo. Come? Semplicissimo. Si inserisce, magari scrivetevelo, prima ve lo faccio vedere, poi lo scrivete. Allora, basta inserire un pulsante, spostamento di record, trova record, adesso poi vi faccio vedere dove si trova quel pulsante lì, eh? E vi vado a dire avventura. Ne convieni che non è difficile? Adesso poi vediamo come si fa. Azione. Ne conviene che non è difficile? Ma questo non è un aggiornamento, attenzione, eh? Questo qua è una ricerca, eh? Una ricerca di un dato. Allora, come si fa questa cosa qua? Quindi, quello che stiamo facendo... No, scusatemi, prima finisco il discorso di prima, che è più di carattere tosto, e poi vediamo anche queste cose, che effettivamente comunque poi fa una differenza da un bel database ad un brutto database. Allora, facendo in questo modo, quindi, io ho una tabella, ho una maschera che punta su quella tabella, quindi ho una tabella film, all'interno della tabella film avrò il titolo, avrò tutta una serie di dati, avrò il genere. Poi avrò una maschera, quindi questa qua è la tabella, questa è una maschera. Film con titolo e poi il menu genere che va a pescare da 0 underscore generi. Che in questo momento non sono collegati. Vedono bene che, fino a questo momento non sono collegati. Quindi, per riassumere, vedo, a questo punto mi prendo il registratore di Vanni e vado in giro con il registratore di Vanni. Quindi per riassumere, questa è una clip, ma la traigo. Ho un menù a tendina. Che pesca i dati dall'underscore. Ma l'underscore non è collegata con la tabella principale. Oh. È giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato? Però gli avevamo detto di andare a memorizzare. È giusto o sbagliato? È sbagliato perché bisogna collegare. Dipende, signora, dipende. Dipende. Non c'è un giusto o un sbagliato, eh? In informatica, il bello dell'informatica è che non c'è un giusto o sbagliato, c'è un dipende sempre. Dipende da cosa, dipende da cosa mi serve a me. Allora, cerchiamo di capirne i pro e cerchiamo di capirne i contro e poi decidiamo se per i nostri scopi sono, è una cosa giusta o una cosa sbagliata. Allora, quali sono i pro? Mi aspetto un certo dibattito. Del tipo, no, cosa dici? È così. No, no, i pro in questa situazione, cioè la tabella non è collegata, le due tabelle non sono collegate, però il menu a tendina va a pescare nella zero underscore. Anzi, non parliamo neanche di pro e contro, in realtà quali sono le varie, i vari fenomeni che si manifestano? Poi anche lì i pro e contro non è neanche tanto vero. I vari fenomeni. Il primo, senza dubbio, il fatto che il menu a tendina vada a pescare da un'altra parte mi dà la possibilità di non dovermi ricordare i vari generi perché li va a pescare direttamente da un'altra parte. Quindi la prima cosa è facilità nel recupero del genere. Cioè invece di andarmelo tutte le sette volte a scrivermelo io, che poi magari si sbaglia anche a scrivere, me li posso andare a pescare dall'altra parte. Questo mi evita, domanda che vi invito a scrivere negli appunti, mi evita di non sbagliare genere? Perché puoi sbagliarlo? Cioè, invece di selezionare azione, non posso sbagliarmi selezionare azioni o scrivere azioni? Vabbè, la selezione è ovvio che la posso sbagliare. No, il mio problema è, invece di scrivere azione o selezionare azione, non posso selezionare azioni che non esiste o scrivere azioni che non esiste? E chi l'ha detto? Sì, sulle tabelle io posso scrivere cose. E chi l'ha detto? Posso sbagliare. Attenzione, perché questo menu a tendina va a pescare dall'altra parte. Pescare. Se tu vai a fare. Ma non è collegata. Allora, attenzione, perché se io qua ho il genere azione e scrivo azioni, lui lo piglia lo stesso. Ma non deve stupirci, eh? È normale, lui va a pescare dall'altra parte, ma non gli ho mai detto evita che l'utente possa scrivere qualcosa di diverso. Non bisogna scrivere solo questo. No, signori, scrivetene negli appunti, perché poi a casa vorrei che voi ci provaste e lo verificaste per conto proprio. Quindi facendo così lui va a pescare nella tabella underscore, ma l'utente non è vincolato, può comunque andare a scrivere qualcosa di diverso. L'avete visto? Provateci poi a casa, vedrete che effettivamente è così. Perciò quando si richiama quella roba, si richiama la tabella, quello non è quello che è lo stesso posto. Non è giusto, non viene fuori. Se si fa una, ad esempio una query, certo. Allora pensateci due secondi prima di rispondere. Il genere azioni, pensateci due secondi prima di rispondere, nella tabella generi è stato aggiunto, ha modificato azione o non è stato aggiunto? Secondo me non ha modificato niente, l'ha scritto solo sulla tabella. Ha scritto solo la tabella film, esattamente, ma nell'underscore non è cambiato nulla. Ok? Primo perché non sono collegate. Primo perché, e secondo perché quello che fa quel menu a tendine è solo quello di andare a pescare, ma non quello di buttare dentro pesci. Quindi lui pesca da quel menu a tendine, quella tabella là. Ma se io glielo modifico a mano, non è che lo va a inserire anche in quella tabella, semplicemente lo inserisce nell'elenco dei film. Se invece fosse... Scusami Vanni. Quindi nell'elenco dei film il 215. L'elenco dei film, il 215, avrà azioni, vedete? Ma nella generi non c'è azioni, perché ripeto, almeno la tendina pesca, non butta dentro. Cioè, guardate signori, cercate di capirlo bene, a casa provatelo, se non vi riesce... Ditemi dove, perché queste sono una serie, uno dietro l'altro, di concetti importanti. Se voi riuscite a concatenarli il senso logico di tutto questo discorso, andate molto avanti con Access, perché qua sono tutta una serie di concetti. Quindi, ricapitolando, io ho creato una maschera sulla tabella principale, ho fatto un menu a tendina, questo menu a tendina gli ho detto vai a pescare dall'underscore. E tutto funziona bene. Il problemino è che se l'utente si gira male e invece di andare a selezionare una delle voci se la scrive lui, il programma glielo lascia fare. Il problema è come faccio a vincolare, quindi scrivete, allora, fino a qua avete scritto tutto, no? Ora, la domanda successiva è: come faccio a vincolare l'utente a selezionare solo i valori dell'underscore? Innanzitutto, questo non ve lo faccio scrivere, però vorrei che mi deste una risposta. È sempre voluto, secondo voi, che l'utente deve essere vincolato a scegliere quello che c'è nella tendina? Dipende, questo sicuramente, perché sennò non vi avrei fatto la domanda. Ma può dipendere da che cosa? No, non tanto evitare il reinserimento, al contrario, così si lascia un po' scoperto il fianco ad eventuali errori, perché magari uno inizia a scrivere. Scrivere sopra un campo che è scritto, lo modifica. Ma comunque lo può modificare, perché io invece di andarlo a scrivere fantascienza posso andare a scrivere guerra e comunque lo modifico. Ma la domanda non è questa, la domanda è: al posto di fantascienza mi sta bene che quello scriva fantascienzina? No. No, vale il 99,9% delle volte. Ci sono alcuni casi in cui potrebbe valere l'esatto contrario, cioè che si vuole lasciare comunque all'utente la possibilità di cambiare. Ricordatevi sempre che non c'è un sì o un no assoluto, dipende sempre da quello che voi dovete fare. Comunque, siccome il 99% dei casi comunque non si vuole lasciare all'utente questa libertà, diciamo, come si fa a vincolare l'utente a non inserire altro? Come si fa? Ok, a questo punto potete parlare. Allora, cosa devo fare? Collegare le due tabelle. Allora, una prima possibilità è collegare le due tabelle, cioè collegare l'underscore con la tabella madre. Una seconda potrebbe essere sulla tabella underscore andare nelle proprietà e modificare e mettere, cercare di impedire di mettere. Tutto l'elenco che ci sta presente. Ma sembra che sono perplesso, perché la strada è quella giusta, è il soggetto che è quello sbagliato. È giusta la tua osservazione, è il soggetto che è sbagliato. Chi è che devi vincolare? Esatto. Cioè sono proprio due modi diversi, per quello che vi dico, stiamo andando a vedere una serie di concetti, non sono solo cavilli, ma sono concetti. Allora, o vincolo tutto il sistema a livello di tabelle e vado a collegarle fra di loro, per cui una volta che sono collegate applico l'integrità referenziale, genere diventa madre di elenco film, con l'integrità referenziale non posso avere record orfani, per cui semplicemente io vincolo l'utente a scegliere solo e solamente i campi che ci sono nella madre. O ragiono a livello di maschera, e a livello di maschera evito nella casella combinata che l'utente possa andare ad inserire altri dati se non quelli elencati. È proprio concettuale. O blocco l'operatività sulla tabella, o blocco l'operatività sulla maschera. Quindi scriviamocelo. Quindi, o lavoro a livello di tabella e collego le due tabelle e le collego, oppure ragiono a livello di maschera e blocco la casella combinata. Allora, guardiamo questo secondo caso perché è quello più semplice. Allora, scriviamoci. Blocchiamo la casella combinata. Allora, sono nella maschera, vado in struttura. Sì. clic destro sulla casella combinata, e poi proprietà. Sostanzialmente vi viene fuori una videata come questa. Ora signore, qua c'è una vagonata di roba, non pretendo che voi ve la andiate a vedere tutta, dategli un'occhiata perché male non vi fa, però voglio dire, quindi vi appare una videata, clicco nella scheda formato. Al fondo di formato, quindi piglio il mio ascensorino qua e vado fino in fondo, è chiaro quello che ho fatto? Ve lo faccio rivedere. Quindi io sono nella struttura della maschera, va ben detto, clic destro sulla casella combinata, proprietà, mi appare questa una videata. Clicco, a meno che non lo sia già, su formato e vado in fondo. Allora, al fondo, da qualche parte, adesso lo cerchiamo, non era nella scheda formato, ma era nella scheda dati. Allora, nel fondo ci sono le seguenti voci. Vabbè, anche a metà in realtà. Vabbè, ve le dico, poi ve le cercate, insomma. Allora, una voce è solo in elenco. Che è qua a metà. Allora, solo in elenco è un sì o un no e risolve il nostro problema. Perché mentre adesso è fissato a no, quindi l'utente si può andare anche a scrivere ccppp e lui gli dice non c'è problema, se io gli dico solo in elenco, lui non mi fa scegliere altro che non quello che c'è in elenco. Per cui io già così risolvo il problema. Senza aver collegato niente. Io vado sulla mia tabella, vedo qua azione, per qualche motivo azione non mi piace, scrivo azioncina, vado avanti e lui mi dice ciccia, e ho già risolto il problema, d'accordo? Lavorando a livello di maschera, chiaro? Quindi solo in elenco, sì. Poi però ci sono anche altre due cose che mentre ci sono me le racconto lo stesso, e sono abilitato abilitato sì, abilitato no, e bloccato, bloccato sì, bloccato no. No, attenzione, bloccato sì mi blocca proprio la possibilità di modificare le cose. Blocca proprio l'elenco. Sì, perché se io dico bloccato sì, lui non mi fa cambiare nulla. Ah. Vedi? È chiaro? Cioè bloccato mi dice non ti faccio più cambiare nulla. Può essere utile bloccato? Dipende da cosa si fa. E qua subito vedete che ci abbiamo acchiappato subito. Ok, dipende, giusto? E ci sono alcuni casi, poi pensate ad esempio ha una maschera dove il magazziniere deve inserire quanti prodotti, quante sedie rosse sono arrivate oggi in magazzino. Allora io nella maschera gli metto il titolo del prodotto che è sedie, gli metto il colore della sedia che è rosso, gli metto il codice del prodotto che è BH125, ma glieli metto tutti e tre bloccati. Mi seguite? Sì. Quindi il magazziniere, nel momento in cui andrà a inserire quante sedie rosse sono entrate oggi, avrà solo il campo della quantità che è modificabile, tutti gli altri sono bloccati. È chiaro? Ora signori, è chiaro che voi dovete cercare di ragionare in un ambiente multiutente. Se voi pensate, come è normale che sia all'inizio, con voi che inserite, con voi che modificate, con voi che cancellate, con voi che fate tutto, questa esigenza non la sentite. E me ne rendo conto, per carità. Ma provate a pensare in un ambiente multiutente, dove c'è il magazziniere, dove c'è quello che inserisce le fatture, dove c'è quello che fa, no? E il magazziniere, ripeto, deve poter vedere che il prodotto BH126 è la sedia rossa, perché magari si può anche accorgere che ha un codice corrisponde ad un altro prodotto e magari può intervenire, no, telefonando a qualcuno, eccetera. Però non deve cambiare il fatto che il BH126 sia la sedia rossa, cioè non può andare a dire no, il BH126 è il tavolino nero. Ma se deve inserire qualcosa altro è il bloccato. Sì, ma magari gli faccio un'altra maschera dove qualcun altro può andare a inserire qualcosa. Nella maschera che lui usa per l'inserimento dei dati, uso, metto, blocco quella che sono lì. D'accordo? Quindi, in questo modo, sostanzialmente, vedete che è molto veloce, ho bloccato l'utente ad inserire altri valori. Invece abilitato? Abilitato, lui è già in default a sì, se io gli dico a no, semplicemente è come se sparisse quella casellina lì. Ma più che quello, ci interessa capire un altro discorso. Allora, l'avete scritto bene sugli appunti? Quindi ci provate poi a casa. Questo vi risolve il problema. Ma quale altro problemino non vi risolve? Ma ve lo risolve il collegamento fra tabelle? Allora, questo meccanismo qua del bloccare il menu a tendina, quindi solo in elenco per intenderci, evita che l'utente si metta a scrivere i giri a caso. E la stessa cosa la farebbe il collegamento tra le due tabelle. Tanto aggiornando le maschere si aggiornano direttamente le tabelle, cioè siamo collegate. Solo. Però, se io qua andassi a scegliere fantascienza nella tabella elenco film, lui lo cambia in fantascienza, d'accordo? Quindi il problema non si pone in realtà. Però se io ho un nuovo genere e lo vado a inserire nella tabella underscore, me lo ritrovo anche qua, l'abbiamo visto prima. E se lo inserisco lo stesso anche sulla tabella dell'elenco, perché butto anche prima. Beh, sì, non c'è bisogno di. Già di missione io vado G, cioè l'utente agisce dalla tabella. Scusami. Non agisce dalla tabella. Scusa, no, underscore. Se io qua gli andassi ad aggiungere il genere Pippuzzo, famosissimo genere Pippuzzo, quando apro l'elenco dei film, nel genere ci sarà anche Pippuzzo. Tu adesso l'hai fatto da superiore. Cioè, non è un discorso di utente master, utente semplice. Da chi mette i dati li mette da una maschera. Tu hai detto proprio che pensava il multiutente. Sì. Allora, se la maschera è c'è un utente che lavora, sì, e deve inserire il nuovo, sì, che come fa? Perché sulla tabella underscore, ah, innanzitutto è chiara la sua domanda, cioè lui dice l'utente a un certo punto si trova nella necessità di dover inserire un nuovo genere perché il genere che sta cercando non c'è, ok? Quindi lui va in quel menu a tendina, il genere che lui vuole inserire non c'è, il programma non gli permette di inserire un altro genere perché giustamente gliel'abbiamo bloccato, come fa sto poveraccio? Gli si crea una maschera dove può andare a inserire il nuovo genere. Ok? Sempre che lui abbia la possibilità di farlo, no? Però sono due problemi distinti. Se lui non può andare a inserire nuovi generi, pensiamo ad esempio magari a nuovi codici prodotto, no? Non è che tutti gli utenti si possono mettere lì a scrivere nuovi codici prodotto, magari ci sarà un altro utente che ha un'altra maschera dove va a inserire i codici prodotto. Allora l'utente base telefonerà all'utente master e gli dice aggiungimi il prodotto Pinco Pallino. Però sono due problemi distinti, basta una maschera. Poi impareremo anche, e lì veramente vi esalterete non poco, a creare dei pulsanti che passano da una maschera all'altra, cosa del genere, e di una facilità infinita, e danno molte soddisfazioni. Per il momento però cerchiamo di rimanere ancora un attimo in concetti. Quindi ripeto, abbiamo detto in questa maniera, adesso non mi ricordo come è impostato il discorso, comunque sostanzialmente mi permette di vincolare l'utente e andare a chiappare il mezzo soltanto un'altra parte. Ma se io lo facessi con una collegamento con tabelle, avrei qualcosa in più. Che cos'è questo qualcosa in più? Per avere le stesse scritte. No, le stesse scritte ce l'hai in questo modo, perché posso scrivere anche io lo sto, perché io lo sto scrivendo il master. Basta che io vado nell'altra maschera, nell'altra tabella, come ho fatto prima, e lo posso dire giù. O come si dice adesso con lui, basta che faccio un rimando la maschera, se lo posso aggiungere ugualmente. Allora, però non è quello, cioè, l'effetto non è quello. Può vedere per ogni genere il piede di sotto. Quello lo faccio come quello, se non c'è quello. Allora, io in questo caso qua ho vincolato l'utente nel menu a tendina di pescare i dati solo da quell'altra e di non poter inserire nient'altro se non c'è, se non c'è dall'altra parte. Lo stesso identico effetto l'avrei ottenuto collegando due. Giusto? Se però io le collego le due tabelle, ottengo anche qualcosa di più. Che cos'è questo qualcosa di più? I campi delle... Cosa comporta, signori? E qua che si deve risolvere la proiezione. I campi possono essere utilizzati anche nella tabella. Cosa comporta collegare le tabelle? Io so perché le utilizziamo in una di cose. Ma serve? Se sono correlate nella correlazione, che cosa io vado a scegliere? Tre opzioni. La prima è la collega di uno a volte. E c'è un'altra opzione. aggiorna in catena e elimina in catena. Quindi l'integrità referenziale ottiene esattamente quello che abbiamo ottenuto fino a qua. Quindi non ci porta nulla di più a quello che abbiamo già fatto con questo. Ma quello che ci porta in più il collegamento di due tabelle è che se modifico azione nella tabella genere e la chiamo azioncina, in cascata tutti quelli che avevano azione vengono aggiornati ad azioncina. Cosa che in questo modo non ci fa. No. Perciò. Che signori? Sì. Quindi, se io collego invece le due tabelle, l'integrità referenziale mi permette di ottenere lo stesso obiettivo raggiunto dal blocco della casella combinata. Ok? Quindi in prima battuta, voglio dire, l'integrità referenziale non è che ci aggiunge nulla di più, ma se seleziono aggiorno in catena, cambiando un genere, cambio tutti quelli correlati. Cosa che invece nel caso prima non succedeva. E ve lo voglio proprio far vedere. Vedete che qua il film 215 ha il genere azione. Ora, se io chiudo, vado in generi e al posto di azione scrivo azioncina, ritorno nell'elenco film e lui ancora generazione. Perché? Perché la mia casella combinata semplicemente gli dice: ok, pescali dall'altra parte, ma non gli ha mai detto se dall'altra parte cambiano, cambiali anche qua. E quindi io inevitabilmente, se non faccio le cose per benino, rischio di avere poi dei campi che non si correlano più, perché di fatto non sono correlati. Quindi dovrei andare in tutte le voci azione e cambiarlo in azioncina, dove sei? Azioncina, azioncina, azioncina, d'accordo? Che ovviamente è una cosa che è impensabile. Se viceversa collego le due tabelle, se viceversa collego le due tabelle, da genere della tabella madre a genere della tabella figlia, d'accordo tutti su questo? gli dico applica integrazione, integrità referenziale, ma soprattutto aggiorna in catena. Siamo tutti d'accordo su quello che ho fatto? Allora, fatemi rifare il procedimento, perché sennò. E adesso mi ha detto sostanzialmente che c'era qualcosa o nella figlia o nella madre che non corrispondeva all'altra parte. Con tutti questi paciocchi ci sta. Allora, rifaccio un secondo la query, elenco struttura, genere, select distinct avventura. Ok. Ok. Allora, se io piglio genere e la trascino su genere, applica integrazione referenziale, aggiorna, gli dico crea, e lui a questo punto le ha relazionate. D'accordo? Quindi effettivamente, se a questo punto il mio elenco struttura, quindi la mia maschera, non avesse solo in elenco, quindi io qua solo in elenco lo posso anche lasciare a no, ricordate che questo era quello che ci bloccava prima, non c'è nessun tipo di problema, perché se io qua gli vado a dire azion, ah, è bloccato, ecco. Bravo, sii attento. Grazie, dammi pure gli ordini. Ok, se io qua scrivessi azioncina, lui me lo fa fare, ma quando vado dall'altra parte, lui mi dice, attenzione, non esiste. Ok? Vedete però anche una cosa importante, che il problema non me l'ha dato quando io ho cambiato da azione ad azioncina, ma quando cambio record, perché cambiando record io andrei a generare un record orfano. Ok? Vabbè. Quindi qua rimettiamo azione. La particolarità avviene però a questo punto, perché se io vado qui e gli dico nella tabella madre, perché a questo punto di tabella madre posso parlare, occhio, perché prima quando avevo fatto solo la casellina combinata che va a pescare, quella non è una tabella madre, è semplicemente una tabella dalla quale vado a pescare, punto. Qua sì che posso chiamare la tabella madre, perché effettivamente queste due sono collegate. Quindi se io la mia azione la faccio diventare azioncina, quando vado qui, il 215 è diventato azioncina. E tutti quelli che avevano azione sono diventati azioncina. D'accordo? Dico, farebbe sempre partire dalle tabelle invece che dalle maschere. Giammai! No! Giammai. Attenzione, perché anche questa è una roba pericolosissima. Perché se domani al dipendente neo assunto gli viene in mente che azione, il termine azione non gli piace, ma vuole fare un po' lo spiritoso e scrivere azioncina, quello ti piala tutto. Invece se l'avessi fatto con la maschera non ti perdeva nulla. Quindi cos'è meglio, uno o l'altro? Dipende dal contesto. Diciamo che se un'azienda familiare dove solo una persona, guarda, veramente dipende dal contesto, non voglio neanche contestualizzare in azienda piccola, azienda grossa, monoutente, pluriutente, dipende veramente dal contesto. dipende da chi, ecco, qua non è più un discorso tecnico, ma è un discorso anche, anche a livello di persone, cioè dipende da chi è davanti. Se davanti c'è un cretino che non capisce che è cambiato, eh sì, cioè quello deve capire che cambiando una, cioè, ma vi racconto questo piccolo aneddoto. Ieri c'era la responsabile del servizio legale da noi, una persona in gambizia, un suo lavoro veramente in gambizia, però non fa di mettere le mani sui sistemi, perché sui sistemi è un disastro. Allora, forse sapete un po' come funzionano le catene di intermediazione degli agenti, agente, subagente, subagente. Oh. Cioè c'è un capo agente, un sottocapo, plurima. Allora, a un certo punto mi telefono e dice, senti, puoi attivare quell'agente? Io vado lì, ma guarda che la mente è già attivo. Ah, da dove lo vedi? Allora vedo al punto 22, 4, 6. E va lì, ah, ma questo è subagente di tizio. E ho capito, sei tu che l'hai fatto. In realtà era la ragazza che lavora con lei, non c'era perché era assente. Mi fa, no, ma assolutamente le società non possono essere subagenti, eccetera, eccetera. Non so, cioè, vedi tu, no? Ah, cancello la gente. Io, no, come cancelli la gente? Aspetta un secondo. Cioè, cerchiamo di capire che cosa comporta il suo sistema. E allora io lo cancello. No, aspetta un secondo. Aspetta che arrivi la ragazza che lavora con te, chiedi a lei che cosa comporta cancellare in quel punto di menu, no? Cioè, e questa è una signora con molti anni di esperienza alle spalle, cioè non è una ragazzina sbarbatella. Ha lavorato anche come ad alti livelli in diverse aziende, però cioè, dipende da chi è di fronte. Questa, visto che non era subagente, è proprio l'agente principale. Aspetta, perché rischi di avere poi un agente che non è legato a nessuno sopra. Poi magari il sistema le avrebbe detto no, non puoi, eccetera, eccetera. Ma io nel dubbio, gli ho detto aspetta, lunedì arriva la ragazza e te lo fai fare da lei. Quindi non è neanche più proprio un discorso tecnico, è proprio un discorso di chi hai di fronte. Anche in un'azienda che, come da noi, ha una sessantina di persone. Non è più la familiare, cioè un SPA di 60 persone. Quindi, detto questo, signori, quello che mi interessa fondamentalmente è che a questo punto voi abbiate chiaro tutto questo meccanismo. Quindi, riassumendolo un attimino, noi abbiamo detto, abbiamo preso una, partiamo proprio dall'inizio, una tabella con una serie di generi ripetuti. Abbiamo fatto un select distinct e abbiamo creato una tabella underscore. L'underscore a questo punto va, tramite una casella combinata, va a pescare i dati sull'underscore. A questo punto vogliamo vincolare l'utente ad inserire solo i dati dell'underscore. Abbiamo due strade, o tramite la tabella o tramite la maschera. Tramite la maschera semplicemente andiamo nelle proprietà della menu a tendina e gli diciamo solo in elenco. E in quel modo lì lui non va, l'utente non ha la possibilità di andare a inserire nient'altro che non sia in elenco. Ma se dovesse cambiare il genere nella tabella madre, non verrebbe cambiato nella tabella figlia, per il semplice motivo che non sono collegate. Se viceversa ragiono a livello di tabella, ottengo lo stesso risultato, ma in più posso decidere di scegliere l'opzione aggiorna in catena. Ripeto, in questo caso non c'è un meglio una cosa, meglio l'altra, bisogna capire che cosa comporta l'una e cosa comporta l'altra cosa. Certo, in generale posso abbastanza convenire con voi che sia meglio aggiornare in catena, per l'indubbio vantaggio che non avrò mai dei record orfani. Male che vada, se mi accorgo dopo un po' di tempo che qualcuno da azione è passato ad azioncina, ripiglio, ricambio e siamo tutti contenti. Il problema fondamentale è quando da azione qualcuno cambia in commedia. E cosa ne so io poi? Che azione era commedia e viceversa. Quindi, cioè, esatto, anche perché non dobbiamo fare conto su una base dati come questa, relativamente piccola, con pochi campi, ma magari una base dati con centinaia di migliaia di campi. andare a cambiare magari un campo da una parte vuol dire che milioni di record di cascata vengono aggiornati. Quindi bisogna valutare, cioè quella spunta lì che in access dice, ma io la metto, chi se ne è, tanto aggiorna, sicuramente serve. E quando ci sono milioni di record bisogna valutarla con estrema attenzione. Con estrema attenzione. Assolutamente. E le maschere invece. A livello di struttura, anche lì l'utente principale. A livello di inserimento dati, i vari utenti. I vari utenti. Potrebbe essere anche chi ha fatto la tabella. Sì, in una realtà piccola di solito chi fa la maschera è anche quello che ci modifica i dati. In un ambiente magari un pochino più grosso, più strutturato, di solito c'è un utente che fa e gli altri che ci lavorano sopra. Nell'azienda dove lavoro io, ad esempio, ci sono tre database in tre uffici diversi che ho fatto io e le persone ci vanno poi ad inserire i dati di volta in volta. Se c'è qualcosa da modificare nella struttura delle maschere o delle tabelle, chiamano me e io gliele vado a modificare. Quindi senza dubbio c'è una distinzione tra gli utenti, che è molto diverso da quello che succede in Excel, perché in Excel porta proprio, per come è strutturato, l'utente che ci lavora è anche quello che fa le modifiche, anche quello che stampa e anche quello che fa tutto. E quindi potenzialmente quello che può fare più danni. Ok signori? Questa sera è sicuramente stata piena, cioè non ha aggiunto niente di più a quello che ci siamo detti fino alla fine dell'anno, ma è sicuramente piena di concetti. Una domanda che non c'entra niente con questo. Facendo un report su una distinta, come mai vengono non nello stesso ordine della tabella, ma vengono in ordine alfabetico? Dipende dall'ordinamento dei dati durante il report. Quando c'è la creazione del report c'è anche l'ordinamento alfabetico. Hai scelto un campo anziché un altro. Allora signori, prima di andare avanti con le varie query, perché noi abbiamo fatto già le query di calcolo, no, vero? No, ok. Esatto. Allora, prima di andare alle query di calcolo, io vi volevo iniziare a proporvi un esercizietto. Non da fare per la prossima settimana, ma da iniziare a ragionarci sopra. Allora, questi sono tra l'altro degli esercizi svolti che vengono fatti al Politecnico di Torino sulle basi dati. Allora, vi propongo questo primo esercizio. Allora, su qualcosa che, almeno per sentito dire, sappiamo di cosa sta parlando, cioè una base dati per un'azienda sanitaria locale. Quindi scriviamocelo. Esercizio. Ripeto, non dovete farlo per la prossima lezione, però vorrei che per la prossima lezione iniziate a ragionarci sopra. Dove iniziare a ragionarci sopra vuol dire che iniziate a buttare giù qualcosa su carta. Allora, si parla di una SL, quindi un'azienda sanitaria locale. Allora, iniziate a copiare e io ne approfitto per andare in avanti. Base dati per un'azienda sanitaria locale. Gli ospedali sono caratterizzati da un codice identificativo, dal nome e dall'indirizzo. I dipendenti di ogni ospedale sono caratterizzati da matricola univoca nell'ospedale, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e numero di figli a carico. I dipendenti sono suddivisi in medici, tra parentesi, si conosce l'elenco delle specialità. Impiegati amministrativi, tra parentesi, di cui si conosce la mansione, e infermieri. L'ospedale è suddiviso in reparti, caratterizzati dal codice, nome, numero di posti letto disponibili. Per ogni reparto si conosce inoltre il medico che è nel primario e i dipendenti che vi lavorano. Ciascun reparto può gestire nelle sale operatorie di cui è noto un codice identificatore, il nome e il numero di tavole operatorie disponibili. Allora, in questo caso si chiede, è un esercizio veramente abbastanza semplificato, no? Perché non tiene conto di tutta la realtà di un ASL, ovviamente. Allora, in questo caso si dice, ok, ci sono una serie di ospedali, vedete che lui parla degli ospedali, e non solo uno, ma più di un ospedale. Sono caratterizzati da un codice identificativo, inventatevelo voi, cioè non è importante, può essere anche un contatore in un caso più semplice. Quindi un codice identificativo da un nome e da un indirizzo. Quindi ospedale Molinette, codice MHTO2 e poi indirizzo. I dipendenti di ogni ospedale sono caratterizzati da una matricola che deve essere univoca nell'ospedale, un cognome, un nome, una data di nascita, un indirizzo, i numeri di figli a carico. Attenzione che dice il numero di figli a carico, e non dice i nomi dei figli a carico. Il numero vuol dire che può essere inserito nella stessa tabella, i nomi vuol dire che dovrei fare una tabella a parte. I dipendenti sono suddivisi in medici, di cui si conosce l'elenco delle specialità, attenzione a quella parentesi, perché di cui si conosce l'elenco delle specialità comporta una relazione uno a molti, perché per ogni medico ci sono più specialità. Impiegati amministrativi, di cui si conosce la mansione, stavolta è la mansione, e gli infermieri. L'ospedale è suddiviso in reparti caratterizzati da un codice, numero, nome, numero di posti letto. Per ogni reparto si conosce inoltre il medico, quindi medico è uno dei dipendenti sopra, che ne è il primario, ed i dipendenti che vi lavorano. In quel reparto. Esatto. Quindi in ogni reparto, al di là di un medico che sarà il primario, ci sarà anche degli altri medici, degli impiegati, degli infermieri, eccetera. Esatto. Ciascun reparto può gestire delle sale operatorie di cui è noto un codice identificativo, il nome ed il numero di tavoli operatori disponibili. Sì, sì, ma devo essere sincero, non è che mi interessi molto. Devo essere sincero, ma non lo dico con cattiveria, ci mancherebbe altro. Ma non mi interessa molto per l'esercizio. L'esercizio dà per scontato che sia così. Ma attenzione, ripeto, non volevo essere scortese prima, ma non mi interessa come sia nella realtà. Questo esercizio specifico mi chiede questo. Perché? Perché mi comporta delle relazioni particolari che sono interessanti da vedere. Poi sicuramente è un caso esemplificato, per cui magari nella realtà è diverso, ci sta. Ok, allora signori, che cosa è che vorrei che iniziaste a fare in questa settimana? Allora, innanzitutto ovviamente che provaste a rivedere il discorso fatto in questa lezione, quindi il discorso del relazione tra due tabelle, della menù a tendina, prima fatto come senza la relazione tra le tabelle e poi fatto con la relazione tra le tabelle, quindi vedere cosa cambia in un caso e cosa cambia nell'altro. Successivamente vorrei che iniziaste a buttare su carta giù le idee per questo esercizio. Allora, qua ve le hanno già suddivise in macro aree, perché vi hanno già chi ha pensato questo esercizio ha già detto: ok, ci sono gli ospedali, tabella, ci sono i dipendenti, tabella, ci sono i reparti, tabella, e ci sono le sale operatorie, tabella. E devo capire innanzitutto come correlare queste tabelle. Attenzione ad una cosa: in realtà queste sono le quattro tabelle principali che sicuramente ci saranno, ma ci potrebbero essere, ed anzi ci sono, alcuni di questi campi che potrebbero costituire una tabella a parte. Questo dipende dalle relazioni uno a molti o molti a molti che si vengono a creare. Guardatelo. D'accordo, signori? Allora, questo è il primo esercizio, poi in realtà ce ne sono diversi altri. Magari più avanti vi mando un po' di esercizi, di testi di esercizi da vedere. L'idea sarebbe quella di partire dagli esercizi relativamente semplici. Questo è un esercizio relativamente semplice, nel senso che non ci sono tante tabelle, e cercare di capire i meccanismi che stanno alla base. Quindi ogni lezione magari vediamo in primi minuti che cosa avete fatto e ci confrontiamo su questo, e poi andiamo avanti con l'access vero e proprio. È chiaro che da quest'anno vi chiederò un pochino il doppio dello sforzo, cioè fino all'anno scorso vi chiedevo di studiare fondamentalmente quello che veniva fatto, da quest'anno vi chiedo di fare due cose: da una parte la parte un pochino più creativa, cioè capire come strutturare un esercizio in base alla richiesta che vi viene fatta, quindi carta e penna, cercare di capire come sono le tabelle, le relazioni fra tabelle, eccetera eccetera eccetera, ed è un filone molto importante. Dall'altra invece la parte più operativa, cioè una volta fatto lo schema, una volta fatto tutto, buttarlo giù sul computer. Chiaramente lo sforzo è duplice, ma se andiamo avanti su queste due strade, secondo me viene fuori davvero un bel corso. Ok signori, buon fine settimana, ci vediamo venerdì prossimo. Stasera no.